tre storie in cui qualcuno nel parlare allude alla propria o all'altrui professione avendocene buoni motivi. La prima: sono ad un convegno, parla un cattedratico, il che vuol dire che insegna all'università e che, insegnando, diciamo, amministra un potere nei confronti di molti studenti e di qualche altro docente. Parla da antropologo, o meglio, da antropologo minimalista, come dice lui, e su per giù racconta di quanto è bravo a giocare al calcio il figlio dei suoi vicini di casa e del fatto che, mentre tira così bene il pallone contro il muro, da solo si fa una specie di radiocronaca. Il ragazzino parla di sé in terza persona, pensa di essere Ronaldo e si racconta a voce alta le proprie prodezze. L'antropologo non è sufficientemente minimalista da aggiungere che questo bambino poi si comporta esattamente come la maggior parte dei bambini di questo mondo dopo una lunga e costante esposizione al mezzo radiofonico e televisivo. E invece ritiene necessario aggiungere questo antropologo che la sua osservazione la deve alla propria lunga e provata esperienza. Lunga e provata esperienza che, come dice lui, gli deriva dal fatto di aver insegnato in tutti i tipi di scuola, ovvero in scuole di ogni ordine e grado, tranne, ed è questa la dichiarazione interessante, tranne che alle elementari. Non vuole lasciare ombre dietro di sé, il professore, nessuna ombra, ed esclude di aver mai fatto il maestro, come se questo mestiere fosse un ghetto infamante, una propaggine dell'agenzia educativa priva di collegamenti con il resto dell'organismo e da cui non è concesso scampo ad anima viva. Il professore universitario scansa gli equivoci e mette le mani avanti. Mani pulite che con la scuola elementare non hanno mai avuto nulla a che fare. È una mossa retorica, fra le altre, per autovalorizzarsi, ma a pagarne i costi sociali, a ben pensarci, sono altri. Coloro che, per l'appunto, con stipendio e impegno ben diversi da quelli del professore universitario, lavorano nelle scuole elementari. Fra costoro mi ci metto anch'io, che se ho imparato a spiegare in qualche modo le mie ragioni, lo devo ai ragazzini che mi sono stati a sentire anni addietro e che con una semplice espressione del viso mi hanno pazientemente corretto, obbligandomi a cercare parole e atteggiamenti idonei per comunicare con loro. La seconda storia: sono in un ospedale e assisto al primo approccio fra medico e parente del malato. Allora, dottore, come vanno le cose? Il medico inizia a parlare, l'altro si scusa di doverlo interrompere, solo per un attimo. Scusi, come vanno le cose? Premesso che io sono ingegnere. Come dire parecchie cose. C'è un mondo intero implicito in quella premessa sulla dichiarazione dei confini professionali. Lei è medico, io sono ingegnere. Prima cosa, alza la bandiera bianca e cala le braghe. Al medico viene riconosciuto subito il possesso del territorio, l'autonomo esercizio dei suoi poteri, la specificità del suo sapere e, in definitiva, anche l'intrinseca incomunicabilità di questo sapere. Come massimo sforzo si chiede una gentile traduzione del suo linguaggio. Ella si chiede questa traduzione presentando le proprie credenziali, che non sono poca cosa, eh? È ingegnere. Il che vuol dire che appartiene ad un livello sociale equivalente a quello del medico. Abbassa la bandiera bianca, si ritira sulle braghe ed è sicuro sia che nessuno ha visto nulla e sia soprattutto che il suo interlocutore non ne approfitterà. Non è una vera parità, ma è come se fosse sancito un accordo secondo il quale qui vince uno e, nel caso, là vince l'altro. Terza storia. Un amico mio fa una ricerca sulla modalità con cui si instaurano i legami sociali e le gerarchie fra i bambini appena arrivati in una scuola elementare. Fra le tante osservazioni interessanti che gli tocca fare, analizzando con cura il comportamento dei bambini durante le lezioni, durante i loro giochi, ce n'è una di queste osservazioni di ordine linguistico. Nota che una bambina rimane spesso solitaria, che non viene scelta per giocarci assieme, non viene coinvolta in quelle operazioni di mutuo soccorso scolastico, in merito alle quali ci si aiuta a fare i compiti, si copia dal quaderno dell'altro, si suggerisce la risposta quando gli insegnanti sono distratti, eccetera, eccetera. E il mio amico rizza le antenne e riesce a cogliere un giudizio che nei confronti di quella bambina corre sulle labbra dei compagni. Quella? Quella è una portinaia. Non una professoressa universitaria, non un'ingegnera, non una dottoressa, ma una portinaia. Le altre professioni, a quanto pare, valorizzano, mentre questa no, e anzi questa rasenta l'insulto. In un brano scritto nel 1908, ma poi espunto dal primo volume della Recherche, Proust parla del fratellino, che in vista di una partenza viene portato dallo zio a Evreux per fargli fare una fotografia. Gli avevano arricciato i capelli come i bambini dei portinai quando li fotografano, racconta Proust, e la sua faccia paffuta era circondata da un casco di capelli neri gonfi, con grandi nastri disposti come i fiocchi di un'infanta di Velázquez. Ciò fu sufficiente, confessa Proust, perché lui avesse guardato il fratellino con il sorriso che ha il bimbo più grande per il fratello a cui vuole bene, sorriso in cui non si sa bene se prevalga l'ammirazione, l'ironica superiorità o la tenerezza. Gli stigmi della portineria allora vengono da lontano, tanto da far diventare il portinaio, come intelligenza delle cose del mondo, nonostante la sua funzione di guardia degli averi padronali, tanto da farlo diventare il perfetto contrario di chi che sia potesse sfruttare un quadro valoriale positivo, fosse professore, dottore o ingegnere. L'ombra dell'oblio ha inghiottito il fratellino di Proust, Robert, che se non vado errato farà giusto il medico e morirà nel maggio del 35, 13 anni dopo il celebre e malatissimo fratello. Già nel sorriso che gli riservava il fratello maggiore stava tutto il suo destino minore. Come stante la capacità delle nostre istituzioni scolastiche di ratificare e riprodurre le disparità sociali, avviata ad un destino minore, se non infimo, è quella bambina che i compagni, definendola come portinaia, inscrivono d'autorità nel martiriologio della divisione del lavoro.